a introdurre il programmino è Marti e scrive: alzati, chiudi gli occhi e balla se la tua vita è una palla. Non ti preoccupare, hai mezz'oretta per dimenticare la tua anima a far volare. Eccolo qui, tra un momentino, Monsieur Gigi D'Agostino. Discoteca, c'è troppo buio e quindi ogni tanto voli per davvero. Però poi dopo, quando ti alzi, dopo poi perché capito? Perché secondo noi il futuro è elettronica.

Il programmino è finito, leccatevi il dito.